quel che ho imparato, più che l'idea della famiglia, più che il valore della famiglia, quello che mi lega ai miei genitori, a mia sorella, a mia nonna, è semplicemente il fatto che gli voglio bene. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È giovedì 10 marzo, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. La famiglia è il luogo in cui si torna quando non si sa più dove andare. La famiglia non ha bisogno di conferme, non ha bisogno di ricevute di ritorno, non chiede nulla in cambio. Per il semplice motivo che ho fatto sì che tu fossi lì, lei non si tira mai indietro. Sì, tu magari ti ci allontani, spesso ci vai contro, ma poi quando pensi a casa, pensi a quello. C'è sempre un momento fondamentale nel rapporto con la nostra famiglia. È un momento che prima o poi viviamo tutti. È quando ci accorgiamo che noi arriviamo da lì e con quella cosa lì dobbiamo fare i conti. Con il fatto che assomigliamo a nostro padre più di quanto pensiamo. A nostra madre per le cose che ci sono rimaste attaccate addosso di quando eravamo nella pancia. Abbiamo condiviso troppo con fratelli, con sorelle, per non riconoscere delle cose nostre nel loro modo di parlare, nel loro modo di ridere, nel loro modo di arrabbiarsi. Ogni famiglia compone un ritratto, un quadro, in cui le facce, la posizione, l'abbigliamento dei soggetti dice molto di quella famiglia. Quando ero bambino, a scuola una volta venne una psicologa. Ci venne per fare un incontro con noi, con tutta la classe. La prima cosa che fece fu chiederci di fare un disegno in cui ognuno di noi ritraeva la propria famiglia. Io feci un disegno a matita in cui disegnai me, mia sorella, mio padre e mia madre, tutti attorno al divano del salotto. Mia mamma e mia sorella sedute, io e mio padre in piedi, ai lati. Quando glielo consegnai, lei mi guardò e mi chiese per quale motivo mi fossi disegnato in piedi. Io le dissi che non c'era più posto sul divano e lei sorrise. Poi mi chiese perché fossi dietro invece che di fianco al divano come mio padre. E le dissi che non c'era più posto sul foglio. Lei sorrise ancora e poi convocò i miei genitori. E voi? Qual è il vostro ritratto di famiglia? 800240024 349-238-6666. Altrimenti io una volta ogni tanto lo dico, c'è una mail che è io sono qui, @radio24.it e un profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui. Oggi si parla di famiglia, perché capita per caso, che uno torni a casa e che se li trovi lì tra capo e collo. È inutile dire che la famiglia e tutte quelle manfrine. Capita però raramente, o perlomeno a me capita raramente, di fermarmi e di guardarli. E questa cosa è successa proprio l'altra sera, cioè ero a casa mia, a un certo punto ho osservato queste persone e mi sono immaginato proprio un ritratto di famiglia. Avete presente le vecchie foto, quelle virato seppia in cui c'erano il mater familias, la mater familias, il pater familias, i nipoti e delle volte anche un cagnolino in braccio a qualcuno? Di solito i ricchi facevano quella foto lì, ma non è vero, anche di solito i migranti forse prima di partire facevano delle foto da tenersi per sé. E quindi oggi di quello voglio raccontarvi, della mia famiglia, e se avete voglia di raccontarmela anche della vostra, proprio come hanno fatto Lara, ad esempio. Lara mi ha scritto su Facebook: il ritratto di famiglia che ho in mente è quello in seppia dei nonni materni con tutto attorno i miei zii e zie ancora bambini, in tutto 14 persone con l'abito della festa in posa statica davanti all'obiettivo, tutte le bambine e le ragazze con un identico abitino bianco in organza e un po' di pizzo, i maschi con calzoncini alla zuava, maglietta e calzini al ginocchio, in mezzo a tutti la nonna, magnifica, con i capelli raccolti in uno chignon morbido come solo lei riusciva, un abito lungo e un semplicissimo lino di lino e di cotone, il nonno accanto a lei in un completo con giacca e pantalone lungo nonostante il caldo, tutti hanno uno sguardo felice, sorridente e impercettibilmente sorpreso, come se proprio non se l'aspettassero di dover stare lì davanti all'obiettivo in quel giorno d'estate. Mi commuove sempre rivedere quella foto, parla di origine e tempi lontani, di affetto e persone importanti che non non ci sono più. 800240024, io sono qui, @radio24.it. Raccontare il ritratto di famiglia in qualche modo ci fa capire più o meno da dove arriviamo, perché alla fine quelle facce lì in qualche modo sono tutte nella nostra faccia. Margherita: non ricordo particolari ritratti della mia famiglia, però ricordo con precisione quello della famiglia che mi ospitò per un periodo a Dublino. Lei, la signora Mater Familias, se ne stava seduta con tutta la sua corporatura, mi immagino come fosse tutta la sua corporatura, su una poltrona di pelle avvolta in un vestito zebrato che la faceva sembrare ancora più grossa. Il figlio alla sua destra, in piedi, la figlia seduta a gambe incrociate alla sua sinistra, entrambi ben pettinati e puliti, con abiti da festa con ricami e merletti. Lui, il marito, gracile e sicuramente, per quanto riguarda la stazza, succube della moglie, se ne stava in piedi dietro alla figlia, e qui la psicologa che era venuta a scuola ci avrebbe voluto dire qualcosa di suo. Sorrideva dietro i suoi occhiali anni 60 e teneva la mano della moglie con il dito della fede bene in vista, il tutto su uno sfondo beige sfumato. Un sacco di organza nelle foto, organza, pizzo e abiti di lino. Non so come sia il vostro ritratto, il ritratto di famiglia, ma più o meno questo qui è il mio. L'altra sera i miei genitori sono venuti a cena a casa mia. Lo so, è una cosa normale. È una cosa che succede un po' in tutte le famiglie, in tutte le città, in tutte le epoche. Cioè, a meno che uno non viva già con i suoi genitori, capita spesso di andare a pranzo o a cena da loro. O che loro vadano a cena da noi, dai figli. Alcune famiglie si riuniscono tutte le domeniche, altre solo quando capita, altre ancora il meno possibile. Sinceramente però la cena dell'altra sera non era prevista e un po' mi ha spiazzato. Cioè mi ha spiazzato trovarmi lì i miei genitori, mia sorella e suo marito. Io ero appena tornato da Roma. Loro sono arrivati in città qui a Milano per mettere una firma da un notaio, di quelli che per certificare che tu sia tu, mentre metti una firma ti chiedono 5.000 euro. Hanno fatto più tardi del previsto, quindi mi hanno chiamato per chiedermi se mangiavamo qualcosa insieme. Io ero arrivato da poco dalla stazione e stavo facendo la cosa che preferisco fare quando sono libero da impegni. Niente. Ero sul divano a fare niente. E quindi lì per lì non ho saputo cosa rispondere. Natalia invece è stata brava. Ha detto subito di invitarli a casa e che avremmo preparato qualcosa per cena. Io ho iniziato ad agitarmi come un cane che si sente braccato. Sono sceso all'Esselunga a fare un po' di spesa. Cioè, a fare un po' di spesa che avesse un senso. Ho preso mozzarella, affettato, della cipolla, del riso, dello zafferano, formaggio e un po' di frutta. Sono tornato in casa, Natalia aveva già apparecchiato per 6. Mi sono messo a fare il risotto giallo perché nella mia fantasia limitata un risotto alla milanese era il benvenuto migliore per loro. Dopo neanche un'ora la mia famiglia era tutta riunita intorno al tavolo. Non avevano ancora visto la casa nuova, quella in cui vivevo, e quindi i primi 10-15 minuti sono stati dedicati al tour dell'appartamento, con tanto di osservazioni ovviamente sull'utilità o meno di ciascuno dei mobili, che quello lì ci sta bene lì, però forse quell'altro invece andrebbe girato nell'altro senso. Poi finalmente abbiamo iniziato a mangiare. Mentre mangiavamo abbiamo parlato di Milano, della sua aria irrespirabile, del lavoro di mia sorella, della pensione di mio padre e dei quadri di mia madre. Abbiamo parlato un po' di politica, ma giusto un po', perché la vediamo molto diversamente. Io preferisco evitare di litigare per colpa di qualcuno che non mi piace e che non è presente. Poi a un certo punto mi sono alzato per sparecchiare. Mentre sistemavo le cose in cucina mi sono girato e ho guardato la tavola. Attorno al tavolo c'erano tutte le persone che mi sono più vicine da sempre. A capotavola mio padre, ha 65 anni, è un bell'uomo anche se non riesce a farsi scendere con la pancia. Ha il naso con una gobba per via di un pugno che ha ricevuto quando aveva 13 anni. A 13 anni ha sputato in faccia a un tizio più grande che aveva trattato male un suo amico. Quel tizio più grande 40 anni dopo sarebbe diventato il sindaco del paese e lui il suo assessore al bilancio. È un consulente del lavoro che non so esattamente cosa sia, ma so che ha a che fare con paghe e con contributi. A sinistra mia sorella Tiziana, è quella bella della famiglia, bionda, sempre impeccabile. Ogni volta che lo incontro ha su un paio di scarpe nuove di cui giustifica a me l'acquisto. Manco la carta di credito che usa fosse la mia. È sempre sorridente e ha una carica di cui dovrebbe fidarsi molto di più. Di fianco a lei il Lele. Faccio ancora fatica a immaginare come genero, ma solo perché si sono sposati neanche 7 mesi fa. Lui è una delle persone con cui mi piace più chiacchierare tra le persone che conosco. Anche se più o meno immagino come la pensa, lui riesce sempre a non essere prevedibile. Si annoia in continuazione del lavoro che fa e lo cambia ciclicamente, ogni 3 o 4 anni. Di spalle mia mamma, la persona con cui il rapporto è il più indefinibile e intimo che si possa avere. La donna con cui ogni uomo prima o poi fa i conti. E il mistero del rapporto con lei, secondo me, racconta meglio di ogni altra cosa quella nebulosa che circonda l'universo femminile. E neanche a farla apposta, di fianco a lei, Nathalie, di cui qui ho già parlato abbastanza. Ecco qua, vi presento la mia famiglia. Just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give. Il luogo in cui sento più spesso parlare della famiglia è la televisione. I programmi del pomeriggio, i programmi della sera, ma anche TG e telefilm. Una delle ultime volte, però, una delle ultime volte che mi ricordi, è stato sotto le feste di Natale. Mi ricordo una pubblicità in cui un bambino apriva un enorme panettone e dietro di lui tutta la famiglia applaudiva, manco avesse vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Mi è sempre incuriosito ascoltare il modo in cui sui media si parla della famiglia. Ma non solo sui media, non solo in TV in realtà, anche sui tram. Perché alla fine non so se vi siete accorti, ma sui tram non è che si dicano cose molto diverse da quelle che si dicono in TV. Insomma, spesso a proposito della famiglia io ho sentito usare dei termini come principi, valori, però mi è sempre sfuggito il significato. Provo a spiegarmi. Se la famiglia è un gruppo di persone che stanno insieme e si prendono cura di chi ne fa parte, io non capisco come ci possono essere dei valori universali riguardanti l'idea di famiglia, visto che ogni famiglia è composta da persone diverse, con diverse personalità, diversi gusti e diversi scopi nella vita. Ora, io non mi ricordo più come mi comportassi con mia madre e mio padre da bambino, e non posso giurare che fossi un figlio perfetto. So però come mi comporto adesso e so di essere perfettibile. So che la famiglia è il luogo da cui arrivo e da cui è inutile sfuggire, visto che sono fatto anche di quella roba lì. Non sento però dentro di me un baluardo che si staglia a favore dell'idea della famiglia. Voglio dire, da quel poco che ho imparato, più che l'idea della famiglia, più che il valore della famiglia, quello che mi lega ai miei genitori, a mia sorella o mia nonna, è semplicemente il fatto che gli voglio bene. La famiglia non ha scelto di essere raccontata in un programma radiofonico. Quando ho deciso di rendere pubblico il mio diario all'interno di questo programma, ho semplicemente detto loro che avrei fatto una trasmissione in cui raccontavo della mia vita quotidiana. Però probabilmente loro non si aspettavano che io facessi nomi, cognomi, o che mandassi in onda telefonate registrate o stralci delle nostre conversazioni. Non si sono mai lamentati, però, e di questo sono loro molto grato. Mia madre e mio padre erano chiamati in causa in continuazione. Mia nonna Lina invece è diventata un personaggio quasi fisso della soap opera che è questo programma. Quando mi è capitato di incontrare qualche mamma ascoltatrice in giro, tutte mi hanno sempre detto che trattavo troppo male mia madre, che le rispondevo in maniera sgarbata, oppure che non le davo abbastanza corda. Quello che penso però è che il rapporto con i propri genitori sia un rapporto silenzioso. Cioè che è più facile chiudere malamente una telefonata che non sedersi ad un tavolo e raccontare di sé. Parlare apertamente delle cose che ci stanno accadendo o che ci sono accadute. Io non lo so il motivo. Non so se è perché loro sono il nostro passato, perché sono la nostra memoria. E noi delle volte vorremmo chiudere i rapporti con il nostro passato. Oppure se è perché ci abbiamo trascorso insieme talmente tanto di quel tempo da bambini che ad un certo punto siamo saturi. Non lo so, però ho capito che a differenza di altri rapporti, quello con la famiglia si regge su un filo sottilissimo, che si allunga e si accorcia, che aumenta e diminuisci la distanza. E più la distanza aumenta, più ne senti la mancanza. Ma appena diminuisce, non vedi l'ora che la distanza torni a farsi ampia. È come un elastico, che ti attrae e si ritrae, in continuazione. E forse proprio per questo continua a tenerti legato. Io credo che si possa vivere lontano dalla famiglia senza per forza avere la necessità di vederla tutti i giorni, di sentirla tutti i giorni. Puoi starle vicino senza doverci per forza stare insieme. E poi c'è una visione più ampia della famiglia. Cioè, una cosa è il ritratto di famiglia, quello che tutti quanti state immaginando in questo momento, no? I vostri genitori, i vostri nonni, se ci sono, se li avete conosciuti, i nonni dei vostri nonni, poi i vostri figli, i nipoti, così ogni ritratto di famiglia si rinverdisce e si rinfresca ad ogni generazione. Però qualche giorno fa mi è capitato sotto mano, perché me l'hanno consigliato, proprio perché si parlava di questa cosa, della famiglia, degli antenati e da dove arriviamo, chi siamo e quanti di loro c'è in noi. È un libricino di una decina d'anni fa, di un piccolo editore che si chiama Edup. L'autore è Ettore Masina. Ettore Masina è stato un giornalista e un uomo politico molto importante, che ha scritto questo libro che si chiama Naufraghi di terra, ed è il racconto di come gli italiani, di chi sono gli italiani attraverso le discendenze familiari. Vi leggo giusto una parte dell'introduzione di questo libro, proprio perché parla di famiglia e parla in qualche modo di generazioni. Due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 trisnonni. Se ci si appassiona al calcolo degli antenati, si arriva a numeri impressionanti, lontanissimi da quelli cui il concetto moderno di famiglia ci ha abituati. Retrocedendo alla decima generazione, diciamo pressappoco alla fine del XVII secolo, gli avi di ciascuno di noi equivalgono numericamente alla popolazione di un villaggio, 512 donne e 512 uomini. Spingendoci agli inizi del secolo XVI, invece, popolerebbero una città intera, circa 65.000. Ma penetrando oltre quel tempo, diventano un popolo. Ecco, questo immenso popolo da cui proveniamo sfugge alla nostra immaginazione, ma è in qualche modo dentro di noi. Se hanno ragione gli antropologi, i quali affermano che il DNA di noi italiani porta ancora l'impronta degli Etruschi, dei Greci e delle genti che popolarono la nostra penisola in questi tempi, fra gli antenati di ciascuno di noi ci sono quasi certamente un fenicio e un greco, un gallo e uno schiavo negro della Nubia, un austriaco e un arabo, uno spagnolo, un ungherese, forse un mongolo o un turco. Certamente una prostituta e un uomo di genio, un soldataccio di ventura e un letterato, un monaco di esigua castità e una donna violata, uno sparafucile e un Bertoldo, un Muzio Scevola e un disertore, una dama di struggente bellezza e molte, moltissime, decine di affamati. L'autore si chiama Ettore Masina, il libro invece si chiama Naufraghi di terra. Grazie a chi me l'ha prestato, a cui a breve ritornerà. Si parla di ritratti di famiglia, del mio ma anche del vostro. Ah, io sono qui. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. E la foto di oggi ovviamente non poteva essere altro che un ritratto di famiglia, ed è esattamente quello che pensate quando pensate a un ritratto di famiglia. Ci sono 2, 4, 6, 8, 9 persone. Sono di fatto tre generazioni: i nonni, i figli dei nonni e i nipoti. Sono due nipotini, uno in piedi sembra abbia su un completino da tennis, l'altro invece sembra più uno scolaretto. I nonni sono seduti, il nonno magnifico con le mani sulle gambe, e invece alle loro spalle tutti quanti i figli. Non so esattamente dove siamo, ma so che la famiglia è quella di Luisa. Pronto Luisa? Pronto Matteo. Ciao, grazie per essere qui e soprattutto per avermi mandato la foto di famiglia. Tu innanzitutto me ne hai mandate due di foto di famiglia che io spero che abbiano pubblicato entrambe sul sito di oggi. Nel senso che una è molto più recente ed è composta da... Quanti siete Luisa? Una ventina? Sì, nella foto c'era una ventina. Io penso che non ho capito se tu ti riferisci alla foto, quella più recente. Guarda, quella che ho appena descritto, no, è quella proprio, è l'antico ritratto di famiglia che mi pare abbia la pellicola colorata addirittura. Sì, era in bianco e nero, poi ricolorata successivamente. E chi, sono, chi sono questi perché esattamente? In realtà lì le generazioni sono due. Uh-huh. Cioè sono stati i genitori e i figli. Quindi, scusami, sono i tuoi genitori oppure... No, allora sono e la famiglia di mio marito. Ok, ok, perfetto. E lì sono praticamente al centro i due genitori, sì, quindi la mamma Ernesta e il papà Francesco, sì, e alle spalle i figli più grandi e ai lati dei genitori i due figli più piccoli. Senti, di che epoca è questa foto, Luisa? Del 1939. Del 39. Sì. E invece senti, nell'altra, velocemente, perché l'altra invece è una foto recente, scattata credo a un pranzo, no? Sì, è un pranzo, uno dei pranzi che si fanno due volte l'anno nella casa del più giovane, che è appunto mio suocero, e l'altro è di 2 anni fa. Uh-huh. E in primo piano, quindi a parte i bambini che sono a terra, tutti gli anziani, piano, tutti gli altri sono i fratelli e le sorelle. Quanti siete? Un veloce conteggio. Pare, evidentemente sono 1, 2, 3, 4, sono 5 non fratelli, lo sa neanche lei. Ognuno siamo 3, 4 figli con relativi nipoti, quindi mediamente siamo in 30 in questi pranzi. Una trentina, senti, ricordaci di dove sei tu, Luisa, così per... Di Roma, provincia di Roma. Di Roma, comunque di Roma città. Senti, il cane invece di chi è? Il cane è di Fiamma, che è la figlia di Sergio, sì, e dei nipotini che sono seduti a terra, si chiama Lucy. Luisa, ti ringrazio molto per le foto e per il racconto. Prego, grazie a te. Ti auguro una buona giornata. Ciao, grazie, Luisa. Grazie anche a te, ciao. Grazie, ciao. Mille. E poi torniamo alla mia di famiglia, al mio ritratto, perché di tutte le figure che vi ho raccontato prima ne manca una, che è la più antica, direi, che è la più anziana, è una persona di cui già vi ho parlato ed è una persona che, di cui credo valga la pena parlare ancora. L'unica che non è venuta a cena è stata mia nonna. Mia nonna parla molto poco. Lo fa quando è da sola, anzi, quando siamo da soli. Capita di rado, in realtà, perché lei vive a Romentino e io a Milano. E poi è sempre insieme a mia mamma o a tutte le persone presenti attorno a un tavolo quando ci si trova ai pranzi o alle cene di famiglia. Qualche settimana fa, però, sono tornato a pranzo a Romentino per tenerle compagnia. E in quell'occasione io ne approfitto sempre per chiederle un po' di cose. Un po' di cose su di lei e sul mondo intorno a lei. E ogni volta mi sembra che il mio ritratto di famiglia, con le sue osservazioni, sia più completo. Al mattino quando mi alzo faccio il letto, sono capace. Fai che cosa? Il letto. Poi vado in bagno, ce ne vogliono due. Di cosa? Di bagno. Perché? Ne occupo due. Uno mi lava la faccia, mi mette la crema, mi pettina, insomma, e l'altro per... Poi vengo di qui e faccio un po' di maglia. Stavamo pranzando quel giorno e quando si pranza si parla, no? Si parla di qualsiasi cosa, si parla appunto della propria giornata tipo, perché io di fatto non la vedo mia nonna, la sento al telefono ogni tanto, la vedo la domenica o il sabato quando vado a pranzo e quindi le chiedevo che cosa fa durante la giornata, che cosa fa una persona di 90 anni durante la giornata. E poi dalla giornata tipo capitava che si parlasse da lì, si arrivasse alla politica. Perché quando siamo andati a votare era appena finita la guerra. Non sapevo com'erano le cose bene, altrimenti avrei votato in monarchia. Io non voto più da tanto. Vabbè, però De Gasperi ti piaceva, ad esempio? Sì, sì, i primi tempi, ma quelle lì era gente con un po' di giudizio. Che poi appunto con la nonna succede sempre sta roba, che si parla del passato ovviamente, però perché sono cose che tu non sai, che magari hai studiato sul libro e quindi ti viene la curiosità di sentire raccontare chi era De Gasperi o com'è stato quando sei andato a votare a favore della monarchia o della Repubblica. E poi però inevitabilmente a me viene da chiedere anche qualcosa sui politici presenti, ad esempio sul Presidente del Consiglio. E lui stava a dire, pas de chic vieux, guarda cosa combinava. No, non ci pensavo che fosse un elemento così. E poi mia nonna fa le cose che fanno un pochettino tutti gli anziani, guarda la TV, sta davanti alla TV, per lo più diciamo la TV le tiene compagnia, credo, non è che la guardi con attenzione, ascolta il programma, infatti in questo momento starà ascoltando e magari mi starà insultando perché non gliel'ho proprio chiesta questa, di registrare questa conversazione, ho semplicemente messo lì il registratore e sono andato a ruota libera dicendo nonna appoggio un attimo qui il cellulare, quindi lei non ne sapeva niente. E quindi così, visto io so che cosa guardo la TV, so che cosa guardano le persone della mia età, i miei genitori, però mia nonna esattamente la TV che cosa guarda? Non ho mai visto Porta a Porta. La sera cosa guardi, scusami? La sera guardo i telegiornali. E poi dopo, ieri sera per esempio ho visto quei bambini che cantavano e stasera vedrò Scotti, l'ultima puntata di Io canto, perché ha anche lui i bambini, no? Poi lei ogni tanto mi chiede del lavoro, no? Nel senso che lei in realtà fa ancora un po' di fatica, secondo me, a capire che quello che faccio è un mestiere. La faccio io, figuriamoci se non la fa lei. E quindi ogni tanto mi chiede: ma quando è che? Ma tu com'è che registri? Quando la prepari la puntata? Ma racconti sempre proprio tutto? Questa cosa non è che le piace moltissimo. E quindi poi si parla del lavoro in generale. Lei è ben consapevole, l'altro giorno mi ha detto: c'è una grossa crisi in questo periodo. Ma non... è da un po' che c'è la crisi. E quindi si parla del lavoro, si parla chiaramente di come si lavora oggi e di come si lavorava un tempo. Prima di tutto noi ci accontentavamo dello stipendio del marito, o tanto o poco, e facevamo l'angelo della casa, preparavamo, allevavamo la famiglia. Invece adesso non sono mai contente di niente. Non ho capito esattamente cosa fosse l'angelo della casa, credo che fosse semplicemente che il suo lavoro fosse quello della casalinga. Sì, esatto, più che altro, come dice Tiziano, l'angelo del focolare, che sta lì, cura la casa e il focolare. E poi alla fine si è arrivato sul discorso che riguardava la famiglia, e visto che oggi di quello parlavo e con lei chiudo il ritratto della mia famiglia, questo mi sembra la cosa con cui chiudere la chiacchierata che ho rubato a mia nonna, perché si è arrivati a parlare della famiglia, e quando si parla della famiglia è inevitabile parlare di matrimonio. Lei è stata sposata per non me lo ricordo più, credo una quarantina d'anni. Mio nonno è mancato, che ne aveva 65, insomma, comunque hanno fatto un bel pezzo di strada insieme, e quindi lei sa bene che cosa voglia dire stare sposata e poi stare da sola, visto che è dall'85 che è da sola. E quindi le ho chiesto a un certo punto che cosa ne pensasse lei del matrimonio, della famiglia e della felicità. Guarda che la felicità del matrimonio è dall'altra sponda e non si può prendere mai, ci vuole solo molta pazienza e cercare di compatirsi uno con l'altro. Cosa vuol dire la felicità del matrimonio dall'altra sponda? Che non esiste, ma sì, si può essere serene. Al giorno d'oggi perché al primo ostacolo si dividono? Perché non sopportano niente? Perché tu ti credi che il matrimonio chissà rosa e azzurro e fioca? Grazie ai Beatles, grazie a Fabio Rudi Cantadori, a Tiziano Bonini e a Laura Faggin. Grazie soprattutto a mia nonna, che si è involontariamente prestata a questa registrazione. Io lo faccio perché un pochettino lo faccio di mestiere e mi piace poi mandarla in onda. Io credo che però, se avete un registratore anche piccolo, anche di quelle a cassette, se avete un nonno o un genitore anziano, ma anche non anziano, e avete voglia di rubargli una conversazione, magari senza fargli capire che lo state registrando, fatelo, perché qualche pezzo di quella roba lì, secondo me, prima o poi vi serve. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi?